Aspetta, sei tu di nuovo? Eh? Oh, col tuo gatto che non sei altro? Piglia, già tutta quanta in culo, tu e quella grande bagassa, mamma tua!